La sobrietà è importante perché veramente io stamattina si parlava di feste di figli organizzate fuori, cioè ci vogliono veramente dai 300 ai 500 euro per fare per festeggiare un bambino, cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, io dico, cioè, queste da noi c'è Cartugna, Mamma Mia, non so, Mamma Mia Animazione, c'è cioè, il Mago Molla, ci sono questi appunto che vanno per la maggiore, non so chi c'è a Catania, ma veramente tutti questi soldi e poi alla fine c'è una standardizzazione della festa che è pazzesca, cioè la festa di mio figlio alla fine è uguale alla festa di tuo figlio, alla festa di suo figlio, c'è cioè, il regista che coordina, che lì mettetevi là, mettete questo, fate questo, cioè veramente poveri bambini, cioè dico, secondo me non si divertono, cioè noi abbiamo la sensazione che si divertano, ma sono studenti pilotati da qualcuno, cioè non c'è una personalizzazione della festa di cui parlava stamattina Fabiana. Io penso che festeggiare un figlio significa innanzitutto cominciare dal mattino con un dettaglio che lo faccia sentire protagonista. Io ho due figlie gemelle, come diceva lei, e loro appunto prediligono l'onomastico perché dice finalmente un giorno tutto nostro, perché il compleanno sono senza no due, hanno tutte sempre cose a due, quindi non hanno mai il momento tutto loro. E allora loro dico il 26 luglio Sant'Anna è la festa tutta mia e il 25 maggio Santa Sofia è la festa tutta mia. Quindi dico, cioè, ci tengono a questa differenziazione. No, perché cioè, giustamente i bambini guardano i particolari, farli sentire protagoniste, appunto assolute, mettere a casa la festa, mettere festa in casa, no? Come attraverso i dettagli di cui parlava stamattina Fabiana, la tavola, un menù speciale, dei fiori. Oggi però siamo più spinti ad andare a mangiare fuori, ad andare dal McDonald's, o appunto ad andare in queste agenzie di animazione, piuttosto che fare festa a casa. Perché ci chiediamo? Cioè, io sento, dico, da tra le mie amiche, la casa è piccola e quindi non c'entrano tutte le compagne. Dico, però forse non è proprio il caso invitare tutte le compagne, perché non è un matrimonio, è un compleanno, quindi forse la bambina ha più voglia di festeggiare il compleanno con quelle sue amichette, perché poi alla fine le sue amiche sono quelle. E dico, se invitiamo 20 persone sicuramente, diciamo, forse stiamo un po' allargando eccessivamente, o comunque stiamo dando un messaggio di mancanza di sobrietà che forse vale la pena, diciamo, coltivare maggiormente. O la casa si distrugge. Allora, io dico sempre, tolgo i soprammobili. È vero che un anno mi hanno lasciato i graffiti sul camino, sulla pietra del camino, però dico, alla fine è rimasto il ricordo dei 4 anni delle gemelle. Quello è un ricordo dei 4 anni delle gemelle. Cioè, Dio, le case sono fatte per essere aperte, per essere vissute, per rovinarsi, per avere gli spigoli smussati, perché lì per avere le impronte dell'unto, delle mani, pam! Cioè, quella è la casa vissuta, non la bomboniera. Cioè, la bomboniera, dico, è della rivista, quella è la bomboniera della casa, della rivista, ma cos'è casa mia? Cioè, la casa mia, vissuta dalle persone che la vivono. Oppure altre cose, dico, ah, i bambini si annoiano e quindi poi se io dovessi reggere le fila della festa non avrei tempo per chiacchierare con le altre mamme o comunque per rilassarmi, parlottare con gli altri. Allora, ok, va bene, ci può stare l'animatore, qualcuno che magari coordini la festa, però almeno parliamo con lui di quello che piace ai nostri figli, delle loro passioni, cerchiamo di costruirle insieme questa festa, di essere protagonisti attivi della festa dei nostri figli, non di pacchetto precostituito, euro 280, dentro fuori 120, se vuole la mascotte 60 euro, se vuole le sculture dei palloncini 10 euro, i tatuaggini 5 euro, cioè veramente. Cioè, è un business assurdo ed è veramente imbastardito, come dire, la parola divertimento di con fattori esterni come la moda, come l'obbligo sociale, che di divertimento vero hanno veramente poco. Divertirsi molto con poco. E chiudo, non solo nelle occasioni speciali, ma anche nella quotidianità. A casa nostra in particolare il martedì è il giorno della compagnetta, quindi noi pensiamo prima la compagnetta da invitare, cosa ci piace, cosa piace alla compagnetta, allora le mie figlie le chiedono cosa piace da mangiare, cosa le piace fare e facciamo, prepariamo, no, cioè quel martedì come un momento bello di incontro. Io ne approfitto, faccio venire un po' prima la mamma, così chiacchieriamo, anziché diciamo la fuga quegli incontri fugaci che si possono fare all'uscita della scuola, in cui c'è chi scappa a destra, a sinistra, poi io ho sempre il piccolino che mi scappa da tutte le parti. E quindi dico un momento di relax in cui posso conoscere le mamme delle compagne delle mie figlie, faccio amicizia con loro e le mie figlie al contempo imparano ad aprire la propria casa, a ospitare le loro amiche, a fare cose che fanno piacere agli altri, no? Penso che sia, dico, una bella cosa, loro ci tengono tantissimo, tra l'altro. Mamma, oggi chi invitiamo? Dico, ditemi voi, chi possiamo invitare? Mamma, allora tu con chi sei amica? Io dico, no, io anche se non sono amica, dico, voglio anzi invitare qualcuno per diventarci amica. Ditemi voi, con chi non siete amiche, così fate amicizie invitandola a casa. Cioè, è veramente una bella, cosa che si è creata da quest'anno e che le sta facendo crescere molto da questo punto di vista. Pensavo poi a una persona a me molto vicina di famiglia che ci ha invitato una sola volta a casa sua. Cioè, diciamo, è appunto famiglia di mio marito è di Modica e quando andiamo a Modica c'è mia suocera chiaramente che ci ospita, poi c'è mio cognato, cioè, ha due fratelli mio marito, un cognato appunto che è una persona estremamente conviviale, socievole, che apre sempre casa sua, è sempre aperta a casa sua. E l'altro appunto nella fattispecie che è quello appunto che ci ha invitato una sola volta a casa sua, cioè nonostante noi andiamo appunto, cioè non siamo di là, però dico, ma non mi offende il fatto che non apra le porte di casa sua, mi colpisce il fatto che l'unica volta in cui l'ha fatto fu un Natale di 2 anni fa, io mi sono riflettevo preparando anche queste cose, dico, ma perché mia cognata non apre mai casa sua? E riflettevo in effetti che l'unica volta che l'ha fatto ha preparato 3 primi, 4 secondi, 10 antipasti, menù di pesce luculliano, servizi importantissimi. Cioè, dico, per carità, ecco, è vero, cura dei dettagli, però certo è chiaro che se invitare una persona a pranzo ti deve costare 200 euro, 3 giorni di cucinata e devi mettere in moto una, diciamo, macchina organizzativa, cioè, è estenuante, ho fatto bene invitarmi una sola volta, dico, la semplicità, cioè, mettiamoci in mostra per quello che siamo, cioè, senza, dico, c'hai piacere di venire a casa mia, cioè, accontentati, cioè, dico, spartani, cioè, io penso che è chiaro che se uno deve fare cioè, tutta sta, mettere in mezzo tutta sta preparazione, tutta questa ostentazione, tutta questa facciata, cioè, dico, sono tua sorella, cioè, dico, come fossi tua sorella, non ti creare problemii, cioè, dico, sii te stessa, cioè, mi accontento, è vero, ci vuole cura del dettaglio, ma non è necessario il servizio, quello che poi devi lavare uno per uno a mano, perché se no te li metti in lavastoviglie, ti schizza e ti partono 60 euro di bicchiere, dico, non è il caso. Dico, quindi sicuramente pensavo anche ieri sera, sono tornata a casa, ero stanca morta dopo una giornata qui e avevo proprio l'unico desiderio, perché cado la soglia, dico, vabbè, ora faccio mangiare tutti e poi mi devo andare a coricare perché mi è anche scoppiato un mal di testa infernale. Mi ha chiamato una mia amica che adesso vive ad Agrigento, Consiglia, qualcuno di voi la conosce, e mi chiama, okay. Mi chiama e mi dice, sono a Palermo, dico, Consi, no, vieni subito, cioè, dico, ma bando a riposo, ma va che me ne frega, cioè, dico, sono stanca, c'è un'amica che non vedo da un anno, è a Palermo, vieni, dico, ti accontenti, dico, senza fronzoli, dico, così abbiamo messo cose di carta, ma siamo stati insieme, non ce ne volevamo più andare, fino a mezzanotte, io nonostante la stanchezza, a parlare con lei, il mal di testa mi è sparito, veramente è stato, i bambini si sono divertiti tantissimo, hanno giocato, cioè, è stato veramente bellissimo. Se mi fossi chiusa nel mio guscio, nella mia stanchezza, nel mio mal di testa, avrei perso veramente un'occasione bellissima per stare bene con gli altri, per crescere. È un augurio, è un proposito per me e per tutti, che veramente che i nostri figli stiano stiano così bene nelle nostre case da invitare continuamente gli altri, da aprirla continuamente agli altri, che gli altri, come diceva qualcuno, quella del materasso, non so chi era quella del materasso, non so se n'è andata, quella delle gommoncine, cioè che gli altri non vanno del materasso a terra, no? Il materassino, che gli altri proprio ci invadano la casa, perché vuol dire che i nostri figli sono felici, cioè ai nostri figli piace stare a casa, sono felici di quello che hanno, sono felici di come la gestiamo e vogliono condividere questa cosa con gli altri anziché fuggire dal nulla verso il nulla.